Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci Oscar! Eccoci qua. Ci siamo! 20 gennaio 8-21 primi quasi praticamente. Vabbè. Guarda, vado rapido oggi con l'introduzione perché oggi è un santo che purtroppo descrive appunto il martirio della passione ed è uno dei più noti perché nella sua iconografia è ricorrente nei secoli per via del suo martirio legato a un albero con le trecce. Sì, con le trecce, perdonate, con le frecce. Beh, era bella l'immagine. No, era bella perché poi sai, è diventata anche un'icona gay, San Sebastiano, è per questo, no? Perché nel colpo tornito è diventata allora la scusa dei pittori che avevano problemi identitari anche. Ma detto questo, San Sebastiano, militare, cavaliere, martire sotto Diocleziano, di cui era amico, e quando Diocleziano lo becca a salvare i cristiani dice, va, mettetelo all'albero e fatelo morire con le frecce. E San Fabiano, papa, anche lui martire sotto Decio, oggi è un giorno ricorrente di grandi avvenimenti perché nella storia americana è il giorno del giuramento dei presidenti da sempre, e quindi infatti anche oggi, come innumerevoli altri, giura il 45esimo e aspettiamo le parole di Trump. Detto questo però vorrei anche ricordare due altre cosette. Pensa che Juncker era primo ministro del Lussemburgo oggi, la bellezza già di 21 anni fa, a 28 anni era già ministro. Questo per dire che non ci sono problemi solo in Italia, sui politici che non mollano la cadrega, cioè si sono nel resto del mondo. E però invece la grandezza della tradizione, nel 1265 oggi si riuniva il primo parlamento formale britannico a Westminster. Pensate a quanto hanno da insegnarci coloro che hanno parlamenti di così secoli prima di noi. Ha detto mollare la cadrega, ma non so se sanno. Sai il gioco vecchio della cadrega di Aldo Giovanni Giacomo? Bari, sapete cos'è la cadrega? No, avete ragione, giustamente me lo fai osservare. Insomma, la poltrona comunque. La sedia in milanese, la poltrona in questo caso, la cadrega. Allora, caro Oscar, oggi abbiamo una puntata molto intensa. Intanto, se volete chiamarci all'800240024, anche su queste polemiche che ci sono e le polemiche per chi fa le polemiche su questa cosa del terremoto e della tragedia in Abruzzo. Cioè, pare che per rispetto dei morti non si possa dire, almeno per 4 giorni, 5 giorni, 6 giorni, non so qual è il limite poi. Non so, perché io vedo anche che molti ascoltatori che ci hanno mandato gli sms, perché questo tema l'hai sollevato anche prima, e vedo che sono molti seguono sciacallo questa impostazione. Però basta essere chiari che gli ascoltatori qui mica si tratta di speculare. La politica che specula sui morti risponderà di fronte ai vostri occhi, fatti suoi. No, altra cosa è articolare, come avviene poi praticamente in tutta la stampa italiana, con toni diversi, delle critiche sul fatto. Piano neve, dov'era? Gli elicotteri, dove erano? Lì, quell'albergo, tutto a posto? No, il Corriere della Sera, autorevolmente, nel primo a scrivere, no, non doveva esserci lì, probabilmente. E così via. Oh, ragazzi, dopo agosto e dopo ottobre, ogni volta ripartiamo. A ottobre le cose avevano funzionato meglio. Stavolta, sorpresi, perché guarda là, guarda caso, da quelle parti nevica, mica nevica solo quest'anno. Tra l'altro, senti, il capo della Protezione Civile, Curcio, credo a 1 mattina, ha detto questo. Se si parla di ritardo vuol dire che non si è compreso il meccanismo e soprattutto sta offendendo il lavoro di un paese, perché questo è un sistema paese, non c'è qualcuno che è in ritardo o in ritardo, sono insieme che stiamo portando avanti queste situazioni, dai sindaci alle strutture operative. Ecco, criticare è criticare il sistema paese. No, criticare le istituzioni, le regole e le cose che sono state approntate a chi sta in alto. Di fronte a chi si trova purtroppo, come è avvenuto ieri, per ore e ore a doversi inoltrare in 1,5 metri di neve senza mezzi e a dover scavare con le mani, onore e rispetto assoluto, no, ma certo, ci mancherebbe altro. Certo, loro sì, loro onore, però qualcosa non ha funzionato se chiamavano lo spazzaneve, no? Non arrivava, se non hanno previsto la nevicata, cioè si può dire o no? Mi sembra un po', mi suona un po' come quelli che dicono Saviano non può criticare Napoli, no? Perché il problema è Saviano, non è quello che lui critica di Napoli. No? Voglio dire, i giornali che scrivono per esempio di quell'albergo che è diventata purtroppo una tragica tomba e così via, che era nato da un enorme abuso edilizio, cos'è? Non bisogna scriverlo per mancanza di rispetto, sì, di chi c'è morto? Sì, poi cosa c'entra? Dicono, poi il processo è finito con la soluzione, però adesso i giudici vogliono riaprire anche la vicenda. Ci sono geologi che dicono che lì era in una zona un po'... esatto, per carità, poi nel massimo rispetto, però... Ma qual è il senso? Viviamo in un paese nel quale le violazioni edilizie in aree che sono esposte a eventi idrogeologici franosi, di esondazioni o in questo caso di slavine sono così rare? No! E quando è che impariamo la lezione? Purtroppo, perdonate, nell'esperienza la lezione si mette a frutto solo dopo le grandi tragedie in Italia, è così. Comunque chiamateci su questo 800 24 0024 anche se siete delle zone diteci proprio la colpite. Vostra. Si possono articolare critiche precise ma per trarne lezione, oppure è un reato, una specie di violazione del rispetto dei morti e sciacallaggio. Però Oscar, noi oggi vogliamo raccontarvi anche una storia molto molto diversa, una storia molto intensa che è stata rilanciata da un video. Signor Presidente della Repubblica, sono sempre stato un ragazzo molto vivace, un po' ribelle, e nella vita ho fatto di tutto. L'assicuratore, il geometra, il broker. Ho lavorato per un team di motard, correvo anche in motocross. Ma la mia passione più grande è sempre stata la musica. Così divento DJ Fabo. Suonare per gli altri mi faceva felice, mi permetteva di sognare e dare un tocco magico alla mia vita. Allora, la voce che sentite non è quella di DJ Fabo, non è la voce di Fabiano Antoniani, questo ragazzo che oggi fa molta fatica a parlare, perché dal 13 giugno 2014, in seguito a un incidente stradale, è bloccato in un letto, è tetraplegico, è cieco. La voce... colei che ha prestato la voce a Fabiano e la sua fidanzata Valeria, che con questo appello al Presidente della Repubblica, Mattarella, chiede, Oscar, una cosa banale, anche se è dura dirla, l'eutanasia. Sì. Cioè la possibilità di uscire da quella notte in cui si sente immerso, una notte senza fine, dicendo voglio poter avere la libertà di porre fine ai miei giorni. Un qualcosa che ovviamente in Italia non c'è. C'è la fidanzata Valeria con noi che ringraziamo. Buongiorno e grazie di essere qui. Grazie a voi, buongiorno. A Radio 24. Intanto perché l'appello al Presidente della Repubblica, che in questa lettera, anche lei lo dice, anche Fabiano lo sa, non è colui che può decidere delle leggi. C'è una proposta di legge in Parlamento che giace. Perché vi rivolgete a Mattarella? Perché in realtà proprio attraverso anche il video che è stato fatto sappiamo che è la massima autorità e l'appello, il nostro desiderio è stato quello proprio di inviarlo alla persona per poter fare in modo di far ascoltare le parole di Fabiano alla persona che in Italia esprime la massima autorità. La nostra speranza è quello che l'appello venga ascoltato dal Presidente innanzitutto, ed è il motivo per cui è stato creato il video e l'appello di Fabiano. Questo chiede Fabiano, questo chiedete in maniera molto semplice ma sintetica. Chiediamo ma che brutale. La sofferenza in realtà di Fabiano venga ascoltata in qualche maniera, proprio perché come sappiamo in questo paese non è possibile, poi non c'è la possibilità di poter scegliere fino alla fine, che è lo stesso concetto che il Fabiano esprime nel video. Come avete potuto vedere e sentire, Fabiano è sempre stato molto libero di poter scegliere nella sua vita e altrettanto vorrebbe fare fino alla fine, vista la sofferenza in cui vive. Posso chiederti, con tutto il rispetto assoluto per quello che passa lui, la sua condizione e per come la condividi, a te era capitato nella vita prima, questo è un paese per esempio in cui abbiamo ricordato pochi giorni fa i 10 anni della vicenda di Pier Giorgio Welby e così via, ti era mai capitato prima del dramma che ha colpito tuo compagno di interrogarti su questo argomento? Chiaramente conoscevo l'esistenza del problema, ma naturalmente mai così da vicino, questo sicuramente. Ci sono dentro e sento costantemente in questo caso la sofferenza di Fabiano e la volontà veramente di sentirsi libero, cosa che non, in questo momento il suo paese non gli dà questa libertà. Prima sentivo di storie, sentivo di lotte, ma chiaramente mai da così vicino. Cioè, immergersi nel problema è tutta un'altra cosa. È questo, uno, io è per questo che sono permesso di chiederlo. Sì, sì. Perché da fuori molti credono che sia una specie di vezzo libertario, come devo dirti. Chi non ha esperienze di alcuni reparti o cronicari di anziani, perché poi c'è quella attiva, quella passiva, il diritto di scegliere a seconda delle condizioni un po' diverse. Però chi non ha esperienza di persone che vedono la vita spezzata, no? Tranne una cosa automatica di dipendenza a macchine, crede che sia così, una specie di cosa. Ecco, invece poi... Ecco, su questo ci tengo a precisare il fatto che è lì la differenza. Quando si vede un proprio caro, una persona a cui si vuole bene, vedere la sofferenza negli occhi, nelle parole, nel corpo, costantemente, 24 ore su 24, sicuramente cambia tutto, cambia non è più un vezzo, è una necessità. Voi siete anche appoggiati, e tra poco sarà il nostro ospite Marco Cappato, all'associazione Luca Coscioni. Ricordiamo anche Luca Coscioni, che era malato di SLA, e poi dalla sua storia insomma nacque proprio questa associazione che si batte per la legalizzazione dell'eutanasia. È davvero una battaglia di libertà, questo è il termine che utilizzate. Come sai, Valeria, molti la pensano proprio all'opposto. Sì. In realtà è la libertà di poter scegliere. Noi ci siamo appoggiati all'associazione Luca Coscioni proprio perché sapevamo che questa battaglia era loro e l'hanno portata avanti più di una volta, chiaramente, come sappiamo, senza ancora purtroppo nessun risultato concreto, nel senso che la legge è stata depositata ma mai ascoltata, e di conseguenza ci siamo dovuti rivolgere a loro per portare avanti la battaglia di Fabiano. È stato Fabiano stesso a chiedere di far riferimento all'associazione. E come ripeto, secondo me, ma più che altro secondo Fabiano, parole dette da Fabiano, è tutto nella vita, la possibilità di poter scegliere fino alla fine, proprio perché si è proprietari di se stessi e di nessun altro anche alla fine, e di conseguenza l'associazione Luca Coscioni si batte proprio per questo concetto. E questo è un punto centrale, che poi è la domanda filosofica, Oscar, e cioè a chi appartenga la nostra stessa vita, perché chi ha per esempio credenze religiose pensa che non appartenga a noi stessi, mentre chi non crede pensa che appartenga a noi stessi. O meglio, chi crede, diciamo, molti di coloro che credono, a cominciare da alcuni papi, per essere chiari, sono convinti che esista un margine che comprende la possibilità di chiedere di evitare il cosiddetto accanimento terapeutico. Che però, quello sì, l'accanimento terapeutico è... Che già prima invece sembrava quasi no anche quello. Questo però, ormai diciamo in tutti gli ospedali, ormai però, in tutte le strutture, esatto, però, serie, l'accanimento terapeutico non c'è. Detto questo, che cosa significhi non avere la possibilità di esercitare in proprio, a prescindere da macchine, le funzioni vitali? Ecco, questo invece è un problema ancora, per così dire, aperto. Io posso dire una cosa, avendo seguito da anni come sostenitore l'impegno civile su questo dell'associazione Luca Coscioni, non è una questione solo di libertà. La libertà è, a questo punto, in quelle condizioni, la sfera in assenza della quale manca la dignità della vita. Ecco, questo io faccio una questione di difesa della scelta, ma delle condizioni di dignità della vita. Una buona vita è anche quella di moltissimi malati con patologie estreme, ma bisogna avere un'idea precisa di qual è la buona vita che uno è disposto ad accettare, e se non è una buona vita ed è pura dipendenza senza funzioni vitali, guardate che non è una questione di libertà, certo, ma che è una questione però anche questa dibattuta. Alcuni potrebbero dire che la dignità della vita è solo per il fatto di esserci, e quindi in quanto dignità. Spero che si capisca che peso le parole proprio per quello. A me fa sempre paura chi, diciamo, vuole stabilire dei criteri dall'esterno, esatto, rispetto alla soggettività di chi è nella condizione di poter decidere per sé, per sé, se una vita è dignitosa oppure no. Questo più della persona stessa che è in una situazione, chi lo può decidere? Però questo mi sembra valere al punto che sul quale il legislatore, diciamo così, non o una certa tipologia di legislatore non vuole sentire, no? Sì, e in merito vorrei, ci terrei a riportare delle parole proprio di Fabiano, dove interrogato proprio su questa questione, perché chiaramente chi passa attraverso questa scelta o questi problemi si fa un sacco di domande. Fabiano dice, sostiene che passa le notti intere a farsi domande e rispondersi da solo. Lui parla di qualità di vita e non di quantità. In questo momento lui dice che non ha la qualità nella sua vita. E vivere in quantità o sopravvivere più che altro, perché lui la chiama sopravvivenza in quantità, non è più in seno rispetto al concetto di vita in se stesso, una quantità di sopravvivenza rispetto alla qualità di vita. Queste sono parole di Fabiano. Una posizione molto, molto chiara, molto, molto lineare. Valeria, noi la ringraziamo. Tra poco ci saranno Marco Cappato e Emma Fattorini che portano avanti un po'. Proviamo ad analizzare il dibattito uscendo, diciamo, dall'umanità, dell'emotività, della storia personale e parlandone a livello anche legislativo, capire se ci sono margini in Italia, se mai ci saranno per... Posso dire solo una cosa, Valeria? Sì. Solidarietà anche perché chiunque decida di esporsi e di fare un caso civile pubblico delle proprie sofferenze, dei casi personali, arrivano anche valanghe di... parole che uno non immaginerebbe di vedersi, anche ecco, di critiche, e allora solidarietà per questo, perché so che capita e bisogna... Grazie anche da parte di Fabiano, grazie davvero, in bocca al lupo, andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo da qui. State ascoltando un programma offerto da Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. 24 mattino, attenti a noi due. Il 13 giugno 2014 sono diventato cieco e tetraplegico a causa di un incidente in macchina. Non ho perso subito la speranza, però. In questi anni ho provato a curarmi, anche sperimentando nuove terapie, purtroppo senza risultati. Da allora mi sento in gabbia. Non sono depresso, ma non vedo più e non mi muovo più. Da più di 2 anni sono bloccato a letto, immerso in una notte senza fine. Vorrei poter scegliere di morire, senza soffrire. Ma ho scoperto che ho bisogno d'aiuto. L'associazione Luca Coscioni ha depositato in Parlamento una proposta di legge per legalizzare l'eutanasia. Ma sono passati più di 3 anni e non è stato deciso ancora niente. Allora, signor Presidente, questo è l'appello a Mattarella da parte di Fabiano, attraverso la voce della sua fidanzata Valeria, che abbiamo avuto ospite poco fa. E da qui vogliamo riprendere il discorso, caro Oscar, insieme a Emma Fattorini, che è una senatrice del Partito Democratico, ma l'abbiamo avuta anche ospite varie volte, studiosa di storia della Chiesa contemporanea, docente alla Sapienza di Roma. Buongiorno, senatrice. Grazie. Buongiorno a tutti. E Marco Cappato, che fa parte dell'associazione Luca Coscioni e che porta avanti da anni, tra le varie battaglie, anche quella per la legalizzazione dell'eutanasia. Buongiorno Cappato, eccoci. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, Emma Fattorini, Valeria, e portando avanti la battaglia del proprio compagno, ha usato parole molto semplici, cioè libertà, qualità della vita, più che quantità della vita, e la possibilità di poter scegliere, oltre poi a tutta la questione della legge depositata da 3 anni. Sono parole che lei accoglie come? Ma su situazioni così tragiche, su temi che toccano così intimamente, come l'inizio della vita, la fine, intimamente le persone, io tanti discorsi filosofici, ognuno ha i suoi principi, le accolgo bene, sono temi, figuriamoci, la libertà e la qualità della vita, sono cose assolutamente condivisibili. Poi bisogna vedere caso per caso, cioè io devo dire, su queste situazioni che rispetto mi colvogono molto, io penso che però non debbano essere usate, perché sono casi estremi per fortuna, anche forse questo caso qui, da quello che ho letto, io non conosco, l'ho letto solo sui giornali, ho sentito, lei la prima, sono casi molto rari, ecco, non partirei da questi estremi per legiferare, perché legiferare è complicato su cose del genere che hanno situazioni molto specifiche, molto particolari, Detto questo, così come anche su tanti problemi legati alla legge, al testamento biologico, sappiamo che le convinzioni che si hanno quando si sta bene magari si cambiano, ma si cambiano anche nell'altro senso, non solo per paura, ma anche per serenità raggiunta, cioè è veramente complicatissimo. Detto questo, il criterio che deve restare per tutti, al di là di tutti i principi diversi che possono esserci nelle singole persone, di ideologie, è che quando si devono accettare le cure quando sono sproporzionate. E questo sì, il cosiddetto accanimento terapeutico. Però... sì, allora, specialmente se i casi del genere, come Cooper, è chiaro, per la, da cui parte tutta la vicenda Coscioni, io bisogna vedere se anche queste rientrano in quel caso lì. Però, ecco, però l'eutanasia, ecco, l'eutanasia è un'altra cosa. È un'altra cosa. La conclusione è questa. No, io su quella non sono d'accordo. Non è d'accordo. Chiaro. E perché? Perché, parlava di eutanasia la fidanzata di Fabiano come... simbolo di libertà di scelta, di libertà di porre fine ai propri giorni, perché non considera una qualità della vita da dover essere vissuta. Ancora io? Sì. Continua. Allora no, io penso, guardi, che lì invece contano un po' i principi, nel senso che bisogna tutelare le condizioni estreme, evitare tutti là dove è possibile, e qui in parte si può fare anche con delle appunto dichiarazioni sul trattamento di fine vita, le cure, cioè cercare di dare, di evitare il più possibile che ci siano condizioni di accanimento. Quali principi? Con delle, anche sul piano legislativo, no? Appunto con la figura del fiduciario, con delle dichiarazioni quando ci sono le condizioni. No, dico, ma quali principi bisognerebbe rispettare, lei dice, su questo, per cui è contrario l'eutanasia? Ma il principio è che uno è libero, deve essere messo in condizioni dalla comunità di essere libero di non soffrire, di non, ma la libertà, ma la vita e la morte hanno delle diciamo, trascendono molto la dimensione dell'autodeterminazione come principio determinante della vita. Capito? Come nella non vita siamo padroni della nostra vita. No, non siamo del tutto, cioè lo siamo. La libertà è anche un fatto di libertà, perché se no diventa una costrizione, tutto un calcolo determinato da una legge. Cioè, io non lo trovo che sia in contrasto alla libertà questa cosa. È un rischio sociale intanto, perché io penso ai grandi numeri, le leggi riguardano questo. Purtroppo, ripeto, è difficile che una legge esprima e possa essere così differenziata su casi singoli. Se noi, per gli anziani, non è chiaro la sua posizione. Forse la parola Dio non è stata ancora pronunciata, ma forse lei pensa a quello. Ecco. No, io non penso a quello. No, io penso, guardi, non so, adesso sento quel caso di questo ragazzo che capisco, cioè un figlio con la stessa età, una scarità. No, che ha tutta questa vita, io ho il massimo rispetto, ma pensavo proprio perché ieri mattina, scendendo qui nel mio condominio, ho incontrato un 93enne che poi mi ha parlato, che non l'avevo mai incontrato, mai visto, che esce la mattina molto presto a camminare, 93, completamente cieco, completamente solo, e gira con un bastone, 4 stelle, si immagina, posto. Sì. E lui è allegrissimo, e io come sta? Purtroppo devo prendere qualche medicina. Allora, ma siamo felici per lui. Per dire come le cose sono diversissime. Certo, solo che, ma non so, credo questo, vogliamo coinvolgere il Cappato, credo che questo sia il punto, è che mentre la libertà di questo 93enne poter vivere la vita fino in fondo, forse la libertà di Fabiano, almeno Cappato se ho capito bene, è di poterla invece interrompere questa vita, e questa libertà lui la sente limitata. Ma ripeto, io ci vuole molta apertura nel caso in cui si verifichi che le condizioni sono, come posso dire, appunto la sproporzione della cura, come era la... Sentiamo, Cappato, questo è il... Ma allora, intanto, quando si parla di legiferare o non legiferare, in realtà delle leggi ci sono, cioè, per essere chiari, se un medico oggi aiutasse Fabo a morire, rischia fino a 15-16 anni di carcere, aiuto al suicidio, omicidio del consenziente. Quindi ci sono delle leggi in Italia che non fanno alcuna differenza tra l'aiuto a morire di una persona che si trova in condizioni di sofferenza insopportabile e un qualsiasi caso di suicidio. E non stiamo parlando di questioni così marginali sul piano sociale, perché fino a che l'Istat raccoglieva questi numeri, si parlava di 1 migliaio di suicidi di malati terminali, di malati all'anno, gente che come Lizzani e Monicelli si butta giù dalla tromba delle scale o dalla finestra. Allora, stiamo quindi parlando di una esigenza sociale precisa. La questione delle terapie, della possibilità di sospendere delle terapie, che è quella della quale sta discutendo oggi il Parlamento, e meno male che ne sta discutendo, perché noi siamo addirittura uno tra i pochissimi paesi dell'Occidente a non avere nemmeno una legge sul testamento biologico, lasciamo perdere appunto sull'eutanasia, cioè non lasciamo perdere, ma il Parlamento oggi sta discutendo questo. Il punto è: se io posso rinunciare alle terapie se sono attaccato a una macchina, e anche se questa rinuncia alle terapie mi conduce alla morte, ed è la conquista del caso Welby, sì, cioè il diritto di rifiutare la terapia, non si capisce per quale motivo un malato in altre condizioni, anche un malato di cancro, che sicuramente è una questione molto più diffusa del caso di Fabo, che però non può staccarsi da una macchina, un malato di cancro, ma subisce sofferenze magari ancora più gravi di una persona attaccata a una macchina, beh, non si vede per quale motivo, se questa è la sua scelta sul proprio corpo e sulla propria vita, non debba poter contare sull'aiuto di un medico. Ha sentito però Emma Fattorini dire che la vita trascende un po'... Questo sicuramente... Per chi ne ha la convinzione, il rispetto è massimo, però come sempre, come sull'aborto o sul divorzio, non si sta parlando di imporre una scelta a qualcuno. Se nella mia vita e nella mia etica personale considero che la vita appartiene a me e che la scelta deve essere la mia, allora non è né Fattorini, né io, né Giannino, né Milan, né nessuno a poter decidere al posto della persona che prende la scelta. La possiamo, ovviamente, la dobbiamo assistere al massimo, ma Fabo è assistito e accudito dalla madre continuamente e anche dagli operatori sanitari, quindi ovviamente se parliamo di persone abbandonate, le persone abbandonate devono essere assistite e curate, ma quando la persona è assistita e curata e matura questa scelta, sì, con convinzione, non possiamo imporre una vita che non si vuole. No, è chiaro, ma le posizioni sono chiare, Oscar, qui contrapposte. Sono chiare, io ricordo solo a tutti coloro che sono in ascolto, per avere un'idea dell'impatto, ecco, cioè, si stima che nel 2016 gli italiani che hanno una storia, per esempio, di solo cancro, una storia di cancro significa sono impegnati in una battaglia, non sono guariti del tutto, sono a rischio che torni, ma comunque la sopravvivenza media sta molto migliorando per tipi di cancro, sono 3 milioni e 200 mila. La stima nel 2020 è di oltre 4 milioni. Stiamo parlando quindi di fenomeni che hanno a che fare con una quantità di casi diversi, ha ragione Emma, ma diffusi, non solo di coloro che hanno avuto un incidente tragico come nel caso di Fabo. E io su questo, avendo il pieno rispetto per chi dice che non appartiene a noi il decidere, insomma, basta andare in certi reparti per avere un'idea nella vita che questo è un problema vero. Io ne parlo con rispetto, mi fermo qua, ma guardate che i numeri non sono quelli di pochi casi. Ecco. Sì, tra l'altro noi anche per questa storia per oggi ci fermiamo qui, perché diamo spazio agli ascoltatori che sono invece sull'altro tema, la questione, le polemiche, il terremoto, ringraziando Emma Fattorini e Marco Cappato. Poi come al solito seguiremo anche questa vicenda, certo, vedremo se ci sono sviluppi. Vorremmo salutare Raul da Modena intanto. Buongiorno Raul. Buongiorno, eccoci. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sì. E niente, volevo, io ieri sera ho visto Salvini, sì, con i dopo sci. Sì, non riesco più ad ascoltarlo, perché una polemica ha tirato fuori gli immigranti, i soldi degli immigranti, i soldi alle banche, e ci sono degli eventi che sono eccezionali in quella situazione lì, dove ci sono le strade che già in estate sono strette, piccole, ci sono arrivati 2,5 metri di neve con punte di 3 metri. Ok, sono delle, cioè, come si fa a fare dello sciacallaggio tutte le volte solo per aver 10 voti in più. Cioè, ma guarda, io Raul, sulla la questione... può fare la polemica sì. che vuole, per la moneta. Deve fare le critiche che deve fare, però. Ma guardi, Raul, io la questione, effettivamente, anch'io sentire i migranti mi sembrava un po' un discorso, cioè mettere proprio no, tutto infatti, insieme. Io stesso ho detto i politici che fanno questo. I politici, però. Però, detto, per esempio, un ascoltatore dice: Giannino, pianta di fare il cretino, quando nevica gli elicotteri non si elevano in volo. No, allora scusa, se guardi i giornali oggi, troverai che c'è un nucleo di elicotteri predisposto per emergenza a Pescara che non si può levare in volo per contrasti amministrativi tra carabinieri e finanzieri. Stavo parlando di quello. L'Italia è a paralisi da iperregolamentazione sì, burocratica. Esatto. Ci sarà anche la tempesta di neve, però noi ci mettiamo anche i regolamenti, le burocrazie, cioè, gli spazzanere che non ci sono. È per quello che gli elicotteri non sono potuti levare in volo, non per la neve. O per tutte e due le cose. Insomma, però la burocrazia noi non la risparmiamo mai. Giorgio, dalla provincia di Rimini? Sì, pronto? Dica. No, io dicevo più o meno la stessa cosa dell'ascoltatore di prima, nel senso che cioè, è vero che sono state delle cose eccezionali, per cui bisogna tenere conto di questo, e soprattutto, voglio dire, queste polemiche dei politici dovrebbero stare zitti tutti, sia chi difende, sia chi vuole dire, approfittare, perché veramente è una cosa vergognosa. Ma guarda, devo dire, Giorgio, effettivamente, Oscar, quando parlano i politici sembra che fanno più danni, ma io più che altro inviterei, leggete i giornali di oggi, cioè i giornalisti, no? Quelli che hanno fatto le inchieste, quelli che raccontano, lasciamo stare i milioni raccolti con gli sms, esatto, bloccati. Fermi, bloccati dalla burocrazia, possiamo essere contenti ed è sbagliato protestare, non lo il sindaco di Accumoli che ha detto soldi degli sms, qui non ho visto un euro, avete fatto milioni, donazioni, SMS, cioè queste sono le questioni da denunciare, non tanto gli Salvini e i dopo sci, quelle sono polemiche politiche, sono un po' noiose. O no, a me annoiano. Lo so, però. Va bene, caro Oscar, tu domani sei in onda, oggi sei in onda e lunedì torniamo qui. Comunque, un abbraccio solidale a tutti gli operatori emergenti. Ma ci mancherebbe. Quelli ci che mancherebbe. Scavando con le mani. Meno ai burocrati del cazzo. Ecco, io la dico proprio fuori dai denti, punto. L'hai detta toccando la piana. E beh, ma insomma, dai, se bloccano gli aiuti che gli italiani danno con il cuore e non li fanno arrivare, ma su. Dai, a lunedì!